E così un salutissimo a tutti. Allora, noi partiamo adesso con la prima intervista via Skype, con la prima intervista e abbiamo Rosario Marcianò. Ciao Rosario. Ciao, ciao Tony, grazie per avermi Beh, chiamato. sicuramente un piacere. Allora, con Rosario parleremo delle scie chimiche. Allora qualcuno dirà, vabbè, scie chimiche, ma che cosa sono le scie chimiche? Ecco, e questa è la domanda che molti non si fanno, nemmeno. Comunque, è la domanda alla quale bisogna rispondere. Io parlerei più tecnicamente di geoingegneria clandestina. Pochi avranno sentito parlare della geoingegneria. Che cos'è? In pratica sono operazioni di modifica climatica o comunque di intervento nella nostra atmosfera per ufficialmente contrastare l'effetto serra. Ci sono molti ingegneri dell'atmosfera che vengono appunto definiti geoingegneri che si occupano di questo. Dopo la nascita della grande balla colossale dell'effetto serra provocato dalle emissioni di CO2, chiaramente è una storia che è stata messa insieme proprio per focalizzare tutte le operazioni e gli studi sulla geoingegneria. Dopo questa balla che è stata studiata a tavolino dell'effetto serra, si è cominciato a parlare già dai primi anni 80 dello scorso secolo della geoingegneria, ovvero della dispersione di particolato metallico o particelle di vetro o altre amenità tossiche, neurotossiche di questo tipo per contrastare l'effetto serra e l'irraggiamento solare. Cioè, secondo la teoria dell'effetto serra, o meglio dicansi effetto atmosfera, provocato secondo gli scienziati non allineati, diciamo così, al potere dal CO2, secondo questi parametri il Sole è un problema perché il Sole scalda la Terra, la temperatura aumenta in modo artificiale e i soliti meteorologi allineati, come anche gli scienziati che evidentemente hanno interesse a pompare questa storiella, dicono che effettivamente il Sole aiuta l'aumento delle temperature medie e loro tutto questo lo chiamano come genericamente cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici genericamente, detto così, non significano proprio niente. In effetti, quando abbiamo grosse alluvioni, problemi di siccità come in questo periodo, dove in questi mesi abbiamo avuto il 70% in meno di precipitazioni sul territorio italiano, soprattutto al nord e al Sì, centro, esatto. tutti questi problemi loro dicono: sì, non piove. Abbiamo la mancanza di una perturbazione vera da circa un anno sull'Italia, ciò è dovuto ai cambiamenti climatici. Che cosa significa? Non significa assolutamente niente. Allora, Ma Rosario, sì, scusami, dimmi. e Ecco, secondo te cosa è dovuto allora? Così spieghiamo ai nostri amici che sono all'ascolto. ci Sì, arrivo. sì, sì. In effetti, questo è un cavallo di Troia. L'idea dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici è un sistema per poter coprire le attività di aerosol clandestine o geoingegneria che è attualmente in corso e quindi non è in fase di studio e sperimentazione a tavolino, ma è in corso, ovvero la dispersione di particolato metallico, quale per esempio alluminio e bario, che sono i principali elementi elettroconduttivi e igroscopici, cioè che asciugano l'umidità, attualmente dispersi in atmosfera. Queste operazioni sono attualmente in corso e sono clandestine perché la modifica del clima è vietata dalle convenzioni internazionali. Ciò detto, questa attività di aerosol clandestina non fa altro che modificare il clima e il tempo, innalzare le temperature in talune circostanze, inibire le piogge nella maggior parte delle occasioni, perché questi prodotti, essendo igroscopici, distruggono le perturbazioni e comunque anche la nuvolosità naturale cosiddetta da bel tempo, cioè quando abbiamo le giornate soleggiate non c'è una nuvola che sia una in giro, perché vengono distrutte. Da cosa vengono distrutte? Dalla dispersione di questi metalli. Lo sconvolgimento della nostra atmosfera attraverso la dispersione di tonnellate di metalli neurotossici provoca un cambiamento climatico. Ecco che serve a questo punto dire: ci sono degli sconvolgimenti climatici, esiste tuttora un effetto serra dovuto al sole, ma in realtà loro sanno che la responsabilità è delle operazioni di geoingegneria clandestina. Ma quello che volevo capire, ma c'è un motivo perché uno deve, per esempio, non far piovere? Cioè, è strategica come operazione? Certo, allora, la modificazione climatica è la punta dell'iceberg di operazioni che nascono da motivazioni molto differenti. Intanto bisogna dire che le ultime tecnologie, parlo di tecnologie che hanno una decina d'anni e non di più, contemplano l'esistenza, la funzione di satelliti e radar che funzionano nel range delle microonde. Ovvero, ti faccio un esempio banale, se alcuni satelliti meteorologici di vecchia generazione, che sono funzionanti ancora adesso, come il SUSAT-24, funzionano nel range dell'infrarosso, l'infrarosso ha una scarsa definizione. Allora, loro preferiscono usare i satelliti di ultima generazione, che non sono chiaramente fruibili dal pubblico, ma che sono di uso specificamente proprietario dei meteorologi e dei militari. Teniamo conto, per esempio, che in Italia la meteorologia è controllata dall'aeronautica militare italiana. Questi satelliti funzionano nel range delle microonde. Però questi satelliti, come anche i radar, hanno un grosso problema con l'umidità. Cioè, se siamo in presenza di perturbazioni o comunque di nuvole contenenti grossi quantitativi di acqua, il satellite non riesce a scannerizzare il suolo al di sotto della nuvola. Ecco che nasce la necessità di distruggere una perturbazione o comunque una nuvolosità che chiaramente è prova e traccia di un grosso quantitativo di umidità nell'atmosfera, affinché questi satelliti funzionino. E questo è un motivo prettamente militare, diciamo, può essere civile e in parte militare. Però poi c'è un altro problema legato al progetto RFMP e al sottoprogetto VTRPE, che prevede la scannerizzazione in modalità tridimensionale del suolo ad opera di satelliti e radar, che rientra in una tecnologia, come ho appena detto, che implica la dispersione in atmosfera, casualmente, di particolato di bario, sali di bario. Perché il bario? Perché il bario è un metallo elettroconduttivo. Infatti, secondo questo progetto, il progetto RFMP, sul quale si basano tutti i radar satellitari e gli AWACS, le postazioni radar installate sugli AWACS, che sono i radar per il controllo aereo militare della NATO, queste tecnologie implicano una difficoltà nella scannerizzazione del terreno all'interno del suolo, cioè mi spiego meglio, sul mare, sulle acque la scannerizzazione del suolo è ottimale. Se entriamo nell'entroterra e quindi cerchiamo di scannerizzare il continente, diciamo così, abbiamo dei problemi che vengono risolti con la dispersione in bassa e alta atmosfera di particolato di bario ed alluminio e ultimamente anche manganese. Questa dispersione di metalli si conclama nelle famose, e qui torno alla tua domanda iniziale, famigerate cosiddette scie chimiche o chemtrails. Cioè, se a bassa quota noi vediamo passare un aereo che rilascia una scia, dico a bassa quota perché è semplice vederlo passare all'interno di un cumulo e i cumuli sono nubi di bassa quota che non superano i 2000 metri, noi vediamo questo aereo che rilascia una scia. Questa scia non è una scia di condensazione, perché le scie di condensazione, anche se in condizioni assai rare, perché si formano ad alta quota, ovvero se una scia di condensazione si forma devono esserci almeno 8000 metri di quota, almeno il 70% di umidità e almeno 40 gradi centigradi sotto zero. Queste sono le definizioni vecchie della NASA, dell'USAF e di altri enti aeronautici. Queste condizioni devono coincidere. Se ci sono tutti questi parametri coincidenti, allora la scia, sebbene breve, si forma. Se invece questi parametri non ci sono, non appare nessuna scia. E in effetti, fino a 10-15 anni fa, i nostri cieli non avevano, non erano sfregiati da scie. Perché? Non perché la fisica sia cambiata o perché le condizioni atmosferiche siano cambiate, ma perché queste che vediamo sono scie rilasciate appositamente a bassa quota. E perché si formano? Perché il componente principale di queste scie è il trimetilalluminio, che è lo stesso che per esempio ha usato recentemente la NASA per formare delle nubi artificiali ad alta quota e seguirne il movimento trasportate dai venti. Perché? Perché queste nubi persistono, come le scie chimiche, che sono famosamente, diciamo in maniera ormai nota, queste scie persistono in atmosfera, si allargano e possono rimanere in cielo per diverse ore, quando invece una normale scia di condensazione non persiste. Anche se però bisogna dire che c'è l'inganno, perché ultimamente, viste le proteste e la sensibilizzazione della popolazione, almeno una parte, hanno iniziato durante le giornate di alta pressione, quindi quando non è estremamente necessario assorbire molta umidità in atmosfera, usano un quantitativo di trimetilalluminio minore, quel tanto che basta che le scie non persistono. Non per questo però sono scie di condensazione, sono sempre scie chimiche non persistenti a bassa quota. Il trimetilalluminio a contatto con l'ossigeno lo assorbe, si succhia proprio l'umidità atmosferica e per converso forma una sorta di schiuma che è la famosa nube, la famosa scia che noi vediamo formarsi ed espandersi. A mano che questa scia si espande, cattura l'umidità atmosferica e noi abbiamo potuto vedere dallo studio delle radiosonde che effettivamente durante le giornate di irrorazione l'umidità atmosferica da valori di 80-90% precipita anche al 20-25%. Questo perché queste scie sono composte da metalli, come dicevo, igroscopici, ovvero che assorbono l'umidità. In questo modo loro hanno prendono due piccioni con una fava, riescono a far funzionare i radar satelliti che funzionano nel range delle microonde e che non amano l'umidità atmosferica, riescono a far lavorare i satelliti meteorologici che funzionano nel range delle microonde e non solo, ottengono anche un altro dato importante, un altro elemento, cioè la depopulation, ovvero sia questi metalli sono tossici, sono tumorali, provocano malattie respiratorie, infarti, Alzheimer, Parkinson, sono metalli estremamente tossici che chiaramente abbassano l'aspettativa di vita e quindi abbiamo meno persone che arriveranno all'età della pensione. Non è un caso se un bel risparmio, dico. Esatto, non è un caso se hanno innalzato l'età pensionabile, perché tu arrivi a 67 anni che dici adesso mi godo 2, 3 anni, 4 anni, 8 anni, 10 anni di pensione. No, muori prima. E quindi lo Stato risparmia milioni di euro nel non dover pagare pensioni, perché chiaramente tu sei passato all'altro mondo. Capito, e questo è un ottimo sistema. Poi è chiaro che ci sono malattie neurodegenerative a lunga degenza, come l'Alzheimer e il Parkinson, che risanano le economie delle farmaceutiche, perché sono malattie che richiedono una terapia di mantenimento, chiaramente un palliativo, per anni e anni, e il malato di Alzheimer o di Parkinson diventa sempre più demente oppure sempre più invalido, ma non muore, però arricchisce le farmaceutiche. Certo, consuma, diciamo, è un consumatore. Consuma. Esatto. E questi possono essere gli esempi. Poi ci sono altri indotti che quindi contraddistinguono l'idea, ma come mai nessuno parla? È logico perché sono tutti coinvolti. Facciamo il caso degli OGM, no? In Italia gli OGM non li vogliamo, gli agricoltori non vogliono gli OGM. Benissimo, allora induciamo la siccità. E infatti sono mesi che non piove, a parte ultimamente qualche goccia, tanto per farci contenti e darci l'idea che la siccità sia così un'idea complottista, tra virgolette, e così non piove, tant'è vero che l'altro ieri si è suicidato un agricoltore proprio per la siccità, quindi non sono io che dico c'è la siccità c'è effettivamente, l'agricoltura viene danneggiata e l'agricoltore viene messo davanti a un out-out, dice adesso cosa facciamo? Ti diamo la nostra semente Monsanto che è geneticamente progettata per resistere alla siccità e non solo, ti diamo anche la semente resistente all'alluminio. E non è una battuta, perché l'anno scorso la Monsanto ha brevettato una semente resistente all'alluminio. Come mai dovrebbe essere resistente all'alluminio? Perché se facciamo delle analisi dell'acqua piovana o del terreno, troviamo quantitativi industriali di alluminio, oltre che bario ed altri metalli che vengono dispersi in atmosfera. Beh, veramente da rimanere senza parole. Allora, quindi praticamente c'è un... loro sanno, quelli, le multinazionali, queste società per azioni di questi progetti? Che sì, sono tutti coinvolti, sono d'accordo. Tutti finanziatori, perché qualcuno chiaramente deve finanziare delle operazioni che costano circa 12 milioni di euro al giorno. In parte sono pagati da noi attraverso la politica del signoraggio. Noi abbiamo un debito pubblico stratosferico che non deriva da una economia ballerina, ma deriva dal fatto che, come tu sai, la nostra banconota non è basata sul valore in oro, è una banconota che in realtà ci viene prestata dalla banca europea, dalla BCE, e per questo motivo noi dobbiamo pagare degli interessi che aumentano sempre in maniera esponenziale su queste banconote, che appunto non vengono emesse dallo Stato, perché la Banca d'Italia non è una banca dello Stato, ma è una banca a maggiore percentuale di azionisti privati. Quindi questo debito non diminuirà mai. E in effetti però su una porzione di denaro nero che circola ma che non appare, questi 12 milioni di euro quotidiani solo per l'Italia vengono letteralmente bruciati per avvelenare la popolazione e i biosistemi, perché poi chiaramente le piante muoiono, il terreno fa fatica, adesso anche quando piove, questo periodo di pioggia breve, il terreno non è in grado di assorbire l'acqua, perché ha subito una siccità per un periodo lunghissimo, è quasi pietrificato, e qui poi andiamo a vedere anche il problema delle frane, perché per indurre la pioggia in alcuni punti ed evitare che piova in altri usano alcuni tipi di batteri come lo Pseudomonas aeruginosa, che è un batterio che rende il terreno estremamente franoso, perché prende la sostanza della colla quasi. Sì, no? L'abbiamo visto in televisione, quella collina che franava proprio, si vedeva proprio un pezzo di collina che scendeva giù. Sì, sono effetti collaterali. Sì. Loro come nuclei di condensazione al posto dello ioduro d'argento usano alcuni batteri, abbiamo visto anche in Germania l'anno scorso la contaminazione da Escherichia coli, non si è mai saputa ufficialmente l'origine della contaminazione da questo micidiale Escherichia coli che resisteva addirittura a 8 tipi di antibatterici diversi, perché? Perché l'Escherichia coli viene usato per indurre le piogge artificiali. Ed è appunto geneticamente modificato e talmente resistente che chi dovesse contrarre questo tipo di batterio è destinato comunque a morire. Questi sono gli effetti collaterali che poi i meteorologi, non faccio i nomi, ma noi sappiamo quelli che stanno in giro col cravattino o con i gradi in televisione, parlano di cambiamenti climatici, di innocue velature, di alte stratificazioni in quota ma che non porteranno fenomeni, tutta questa gente è pienamente al corrente di quello che sta succedendo. Rosario, scusami, ma tu lo sai benissimo, anche perché hai partecipato a una trasmissione su Rai 2, sì. Voyager mi sembra, dove comunque, voglio dire, Rai 2 è una televisione nazionale, ha comunque parlato delle scie chimiche, voglio dire, è arrivato all'orecchio qualcosa al grosso pubblico? Anche in quei casi lì bisogna dire che sono basse operazioni di controinformazione, anzi direi di disinformazione, perché in effetti la RAI si era già accordata con l'Aeronautica Militare Italiana per impostare la trasmissione in maniera tale che alla fine di tutto il discorso si trattava solamente di argomenti da paranoici e gente un po' squilibrata. Quindi l'operazione da un punto di vista grafico è stata preparata in modo tale da presentare il sottoscritto come un malato di mente e nel contempo i militari erano già pronti con le loro battute, l'ENAV era già pronta con la sua dichiarazione di sicurezza del volo, che è tutto sotto controllo, che qui che là, alla fine di tutto il discorso la trasmissione è stata più controproducente che altro, perché alla fine chiaramente il risultato che ne viene fuori è che si tratta di un'altra teoria da complottisti, ma che in effetti non c'è niente di cui preoccuparsi perché l'aeronautica tiene sotto controllo tutto il nostro spazio aereo. Invece in realtà è l'aeronautica che collabora alle attività di aerosol clandestine, chiaramente gestite dall'ONI, che sarebbe l'Office of Naval Intelligence, che a sua volta è controllato dall'ONU, Organizzazione per le Nazioni Unite, e dalla NATO. Quindi quando lo stesso presidente Napolitano, interpellato da una ricercatrice attivista italiana, ha risposto alla questione delle scie chimiche, noi da quella risposta sappiamo che effettivamente non è una così un'idea che è venuta a noi di parlare di queste cose, ma è una sana realtà, perché Napolitano ha detto: non mi compete, in sintesi, non sono cose sulle quali io ho autorità perché sono sottoposte a leggi e regolamenti, per cui vedetevela voi. Quindi quando un Presidente della Repubblica, che tra l'altro è lo stesso che ha insediato Monti con una sorta di colpo e quindi colpo di Stato soft, non può non sapere, evidentemente sa, ha risposto tramite il suo portavoce dell'aeronautica militare ed ha implicitamente ammesso che le scie chimiche esistono, solo che sono sottoposte a leggi e regolamenti. Questo è gravissimo. Vabbè, perché esistono comunque, cioè voglio dire, io ho seguito a volte Giulietto Chiesa, ne ha parlato, e praticamente esistono già dei documenti, dei fogli all'Unione Europea dove parlano appunto di questi esperimenti militari sulle scie chimiche. Quindi praticamente c'è, come si dice da noi, c'è già, nero su bianco. Già prima del 2000 c'era stata una dichiarazione ufficiale da parte della Comunità Europea che aveva stigmatizzato le operazioni, non tanto le scie chimiche quanto le attività di ARP, che sono comunque collegate alle irrorazioni nei nostri cieli e che io posso aggiungere implicano anche il controllo mentale della popolazione attraverso l'emissione di onde a bassissima frequenza. Sì, o ad altissima frequenza. Esatto. Dipende dal... dipende, per altissima frequenza in effetti è così, perché ARP emette delle onde ad alta frequenza verso la ionosfera, sfasate leggermente, sia in tempo che in frequenza. Il rimbalzo verso terra provoca una bassissima frequenza, che poi è quella che induce sul comportamento umano e sulla mente, perché molti scienziati in passato hanno dimostrato che l'emissione di onde hertz, frequenze hertz leggermente spaiate rispetto alle frequenze naturali del cervello provocano degli squilibri che possono portare anche alla follia. O comunque quindi, un nervosismo, una tensione. Sì, ma in effetti poi c'è un altro scienziato che si chiama Kucinich, americano, che ha scoperto che attraverso queste frequenze possono essere indotti dei messaggi. Cioè, in realtà un segnale sonoro viene emesso attraverso delle frequenze bassissime, non udibili, ma percepibili dal cervello come un ordine. E quindi se tu immagina queste frequenze vengono emesse in modo ripetitivo durante la notte, non solo abbiamo una inibizione della fase REM, cioè del sogno, ma abbiamo anche la probabile inoculazione, diciamo così, di un determinato tipo di comandi che generano poi quella che è da noi definita il comportamento da zombie della popolazione, cioè un controllo mentale. Sì, però la gente non si accorge di niente, non vedono neanche il cielo devastato la mattina. Tante volte tu fai notare apposta parlando con Sì, è qualcuno, già successo. vai verso l'alto, parli ad alta voce per farti sentire, l'altra persona vede che stai parlando, guarda e non vede niente e poi guarda te come per dire questo è matto, no? Sì, sì, Ma sì, sì. in realtà loro non vedono niente. Poi ci sono anche dei messaggi sono... subliminali, anche su sì, delle pubblicità, dove ormai certo, il cielo rigato sono... è diventato sì, una cosa ci normale. sono anche altre, ci sono anche tante persone che non hanno mai avuto accesso a un libro cartaceo o ad internet o non hanno mai sentito niente in televisione, però in maniera scientifica ti spiegano, sì, sono le scie di condensazione provocate dall'umidità, dagli scarichi degli aerei civili. Chi te l'ha spiegato? È inquietante la sì, cosa. Sì, per sentito dire. Io molti che sento, dicono, no, ma il clima, oggi piove, ma che possiamo fare, non possiamo fare, cioè, come per dire che il clima, nessuno può cambiare il clima, solo, dice il Signore, Certo. Gesù, Dio, eccetera. Non hanno, cioè, non Sì. si è capito che il clima comunque si Sì. può cambiare artificialmente. Ci sono anche dei servizi, mi sembra uno sul TG1 di qualche anno fa, dove parlavano di una riunione che devono fare in Russia, di una parata militare, eccetera, dove fanno vedere, non so se l'hai visto, ma sicuramente sì, un aereo dove praticamente sgangiano dei gas, delle cose per cambiare proprio, per far tornare il sole dove dovevano fare la parata Sì, in militare. effetti la modifica climatica esiste ufficialmente in Russia, esiste, c'è anche il Ministero per la modifica del clima in Cina, come il Ministero per la politica della modifica del clima in Thailandia che è un paese dittatoriale, ci sono addirittura i cartoni animati che spiegano come rilasciano le scie e come fanno appunto il cloud seeding tipico che fanno qua. Una cosa da correggermi, spesso mi confondo, parlavo prima di Kucinich. Kucinich fu il senatore che parlò delle chemtrails e che quindi le denunciò come armi esotiche nel 2000 e cercò di far approvare una legge che bandisse le chemtrails. Invece io mi riferivo a Becic. Becic è lo scienziato che ha scoperto la traduzione delle frequenze in suoni, in comandi verbali. Quindi questo è un Cioè, volevo resoconso. dire, se vogliono organizzare una rivoluzione in Siria, mettiamo uno stato a caso, possono incidere con queste, con praticamente possono mandare dei segnali ad alti, cioè voglio dire, riescono a livello mentale a creare una parte, una situazione dove possono far star tranquilla la popolazione con dei beep, Certo. ci parlavamo prima, oppure Sì. possono anche animarla, Sì, farli incazzare. a loro interessa che la popolazione sia zombizzata, quindi a loro interessa che vi sia una situazione tale nella quale la popolazione si prenda qualsiasi botta sulla testa senza reagire e che vada a votare. A loro interessa solo questo, perché le finte democrazie si basano sul voto. Che poi il voto non serve a niente, come abbiamo potuto vedere dai referendum che sono stati tutti, compreso quello sulla eliminazione del finanziamento dei partiti, sono delle prese per i fondelli, come anche il referendum sull'acqua. Abbiamo fatto tanto per evitare la privatizzazione dell'acqua, invece adesso ce la stanno reinfilando Sì. proprio a causa della siccità indotta, provocata dalle attività di aerosol clandestine. Lo stesso vale per gli OGM che ci costringeranno ad assumere e a coltivare proprio per via della siccità. Il ministro attualmente in carica ha definito gli OGM la salvezza per l'agricoltura. Quindi siamo ormai a dei livelli tali per cui serve una popolazione addormentata che non si renda conto di quanto sta accadendo, e in questo i media stanno facendo un lavoro eccezionale, perché sono dei media completamente asserviti al potere, attraverso i quali non filtra assolutamente nessuna notizia utile per la popolazione, e questo ci porterà a crollo, perché se teniamo conto dell'ultima legge che stanno per approvare sulla politica economica e quindi la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, Sì, questo ci porterà completamente nelle mani delle banche e delle agenzie finanziarie e della BCE. Questo indurrà una catena, una serie a catena di manovre economiche per cercare di arrivare al parimento, al pareggio di bilancio, e faremo la fine della Grecia, della Spagna, del Portogallo. Bene, bene. Questo perché Monti chiaramente è uno di quei pupazzi che servono per eseguire il lavoro che Berlusconi non se la sentiva più di eseguire, per quanto anche lui avesse avuto gli stessi ordini. Vabbè, era un po' poco credibile ultimamente, anche per impartire, per dettare, per far pagare nuove tasse, non poteva, sì, assolutamente. In effetti a loro è sempre servito un determinato tipo di pupazzo, e fin quando che quel pupazzo gli serve lo usano. Ma magari Berlusconi era, come si dice, per le allodole, no? Per cercare di creare, di pensare ad altro. Pensiamo ai festini, pensiamo a quello che il Presidente del Consiglio poteva fare, eccetera. Ma non pensava adesso, cose per esempio, serie. stanno distraendo sul gossip, la popolazione, diciamo. Un modo per distrarre la popolazione lo trovano sempre. Adesso stanno distraendo la popolazione con la questione della Lega, ma in realtà, prima di tutto, dimenticando che tutti i partiti si sono fregati una marea di milioni di euro, certo. In decine di anni, quindi la Lega è solamente l'ultima che è arrivata a poter fare man bassa dei soldi pubblici. Tutti gli altri partiti sono stati solo più furbi, cioè non si sono fatti beccare, certo. Ma in realtà il furto è, lo hanno eseguito tutti i partiti. Erano non più solo esperti più che altri. Esatto, e più scaltri. Questo in effetti poi è sempre un sistema attraverso cui i media distraggono la popolazione dai problemi veri, perché l'approvazione di una modifica dell'articolo 81 della Costituzione ci porterà al tracollo, cioè noi avremo l'eliminazione delle pensioni reversibilità, avremo l'abbassamento degli stipendi, avremo il licenziamento di migliaia di dipendenti pubblici e privati. Questo otterremo da Monti, non il risanamento della finanza, ma questi soldi andranno alle banche. Nessuno sa, per esempio, che a gennaio Monti ha praticamente regalato a una banca statunitense, della quale adesso non mi sovviene il nome, miliardi di euro, così ha preso, e appena è stato insediato ha firmato e ha consegnato un tot di migliaia di miliardi di euro a una banca statunitense, però nessuno ne ha parlato. Queste cose qua perché non si vengono a sapere? Perché non devono essere conosciute, ci devono portare al tracollo, devono continuare ad avvelenarci con le scie chimiche e nessuno deve sapere niente. Ho capito, per quello che riguarda, diciamo, il nuovo ordine mondiale, i soliti complottisti, diciamo, fra parentesi. Ci siamo già dentro. Cosa vogliamo di più? Noi abbiamo Monti che non è stato eletto da nessuno. Sì. Abbiamo un governo che è completamente basato sugli ordini della BCE, che è una banca. Cioè noi abbiamo il governo delle banche. E quindi abbiamo un governo centralizzato, laddove anche Napolitano, per diverse volte, in varie occasioni, e addirittura anche Papa Ratzinger, ha incoraggiato l'instaurazione di un nuovo ordine mondiale, parole pedissequi, quindi ci siamo già. Noi abbiamo un governo che esegue gli ordini di un governo centrale, questo è il nuovo ordine mondiale, perché tutti gli stati europei eseguono gli ordini della BCE, tranne la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca, che non hanno accettato per ora. Poi magari gli faranno qualche alluvione, così poi li convinceranno a decidersi. Ma il lucchetto l'abbiamo messo col Trattato di Lisbona? Il Trattato di Lisbona, il codice alimentare. Il lucchetto proprio per chiudere. Certo, il poi cerchio. Siccome il Trattato di Lisbona doveva essere un tipo di trattato che doveva essere accettato dalla popolazione tramite referendum, gli hanno cambiato nome e l'hanno fatto diventare un trattato, ma in realtà doveva passare questo Trattato di Lisbona attraverso un referendum popolare, cosa che è stata assolutamente saltata. E poi la è stato approvato. Cosa vale per il Codex Alimentarius, che porterà ad avere tutti gli alimenti irradiati con i raggi gamma, quindi privi di nutrimento e via dicendo. Cioè noi siamo sotto un governo di pazzi, un governo centralizzato di pazzi, quindi io parlo della Comunità Europea, che porterà, se non ha già portato, alla morte di milioni di persone, proprio perché i piani di questa elite sono quelli di eliminare un gran numero di pesi. Quindi anche lì, diciamo, perché adesso con le tasse che ci sono, la crisi che se ne parla tantissimo, anche l'impoverimento, diciamo, del popolo porta comunque a un maggiore disagio, una maggiore delinquenza, pure a livello di ordine pubblico cominciano a saltare un po' di cose, forse lì è il momento giusto agli illuminati di agire. L'obiettivo è quello di eliminare la classe media, quindi avere due classi, la classe dei super ricchi e la classe dei poveri. Considera che un povero che non sa che cosa mangiare e cosa dare da mangiare ai figli e che ha perso la casa e via dicendo, è un cittadino ideale perché non ha la possibilità di occuparsi di altri problemi. Esatto. Quindi, portare alla fame la popolazione non è un incidente di percorso, ma è l'obiettivo di questa elite. È strategico, abbiamo È detto. strategico. Loro comunque lo stanno pensando da diversi anni, si dice dalla Rivoluzione Certamente. francese addirittura. Esatto. E che molti capi di Stato, eccetera, sono addirittura presi da età infantile qua, li prendono proprio a 15 anni, 18 anni. Se tu tieni conto che per esempio, noi abbiamo Mario Monti che fa parte, ha studiato dai gesuiti. Abbiamo l'altro Mario che è quello che sta alla Banca Europea, che si chiama Mario Draghi, anche Sì. lui è stato tirato su dai gesuiti. Cioè tutti quelli che vanno poi a occupare cariche importanti sono stati già preparati. Cioè, Sono già in pronti. realtà, tutti quelli che vanno a governare, quelli che vanno in posti chiave, non ci sono arrivati per le loro capacità, ma perché è stato già deciso che avrebbero dovuto assolvere a determinati compiti. Certo, come le logge massoniche, le school and bonds che prendono già dai tempi dell'università. Certo, sì, come negli Stati Uniti, qui abbiamo i gesuiti che fanno la stessa cosa. Siamo messi male, Sì, malissimo. Rosario. Malissimo. Allora, Infatti. in pratica, per spiegare ancora meglio agli amici, quando guardate in alto una bella giornata, quindi il cielo è sereno, è un bel celeste, vedete magari una scia, vedete un aereo che lascia una scia lungo Esatto. il cielo, Non date una. è un aereo di linea, perché gli aerei di linea ad alta quota non si vedono. Comunque bisogna dire, guardate a volte il cielo, guardate un po' in alto. Invece di guardare o per terra o dritti, guardiamo il cielo. Perché io a Esatto. volte mi è capitato di vedere, magari in una giornata serena, con un bellissimo cielo celeste, sono passate un po' di righe, eccetera. Dopo 2 o 3 ore, praticamente avevo un cielo velato. Sì, il cielo diventa bianco proprio a causa di questo particolato metallico, tra questo il diossido di titanio, che è proprio il metallo che dà quell'aspetto bianchiccio al cielo. E, tra l'altro, i nostri amati avvelenatori, per cercare di risolvere il problema e quindi dare un aspetto azzurrino al cielo, per quanto trattato, specialmente durante le ore notturne, diffondono il tossicissimo manganese, che ha la caratteristica di dare un colore azzurro al cielo. Quindi non rimaniamo in inganno anche quando vediamo il cielo azzurrino. Specialmente nelle giornate di bel tempo, se non v'è presenza di cumuli da bel tempo, vuol dire che vi stanno fregando, perché senza cumuli è impossibile, perché l'evaporazione provoca la formazione di queste nubi anche sui deserti. Per cui, quando il cielo è completamente sgombro, quando i servizi meteo dicono cielo sereno e senza nuvole, e quindi senza fenomeni, giornata soleggiata, sono tutte balle perché durante la notte assorbono tutta l'umidità atmosferica e distruggono la nuvolosità naturale che a loro dà fastidio. Durante il giorno abbiamo queste giornate finte con questi cieli di plastica azzurrini, ma in realtà sono cieli trattati. Io ho Alla sera fatto. poi vedremo queste nebbie di ricaduta, che sono le famose nebbie tossiche che provocano gli infarti, le crisi respiratorie e comunque a lungo andare tumori e malattie neurodegenerative. Mi sono meravigliato una volta. Vedevo il cielo senza nuvole in Egitto. Non so Sì. se è una questione naturale o artificiale, Beh, ma proprio ma proprio perché senza niente, zero, anche l'Egitto è zero. trattato. Anche l'Egitto è trattato. Se tu guardi le foto delle piramidi scattate negli anni 60 e 70, sopra vedi i cumuli. Se invece vedi le riprese video o le fotografie di oggi, il cielo è completamente bianco, velato o addirittura con le righe, con le strisce provocate dal passaggio di questi aerei militari. Fai conto che, per esempio, in Libia, durante la rivoluzione, diciamo il contrasto all'invasione dei nostri invasori della NATO, c'erano i cumuli e il cielo era blu. Ora, se vai a vedere le ultime riprese che stanno facendo, anche loro hanno il cielo bianco. In Afghanistan, sulla striscia di Gaza, è pieno di scie e cielo bianchiccio, perché in quelle zone prettamente militari irrorano come irrorano da noi. Io in Russia ne ho viste pochissime. Russia se ne vedono di meno, però anche lì il fenomeno esiste. Tant'è vero che se vai su YouTube vedi delle testimonianze scritte anche in russo sulle scie. Ne ho viste tantissime in Spagna, le isole e le Baleari. Una cosa incredibile. È un fenomeno mondiale. Tieni conto. Però a Cuba ho sentito di no. Possibile? A Cuba fino a pochi anni fa. Quando poi Castro si è ammalato ed è entrato a prendere il potere il fratello, hanno abilitato l'installazione delle antenne di telefonia mobile, che poi ufficialmente sono tutte di telefonia mobile, ma in realtà non lo sono tutte quante, ma vengono dette torri Gwen e servono proprio per la riprogrammazione mentale attraverso anche l'irrorazione di queste sostanze chimiche. E da quel momento in poi, se tu guardi le satellitari, la situazione è la stessa che in Florida. Mentre qualche anno fa tu vedevi proprio come un confine netto segnato, fino alla Florida vi erano scie chimiche, invece su Cuba c'erano i cumuli. Adesso non è più così. Tieni conto che tecnicamente adesso, se vogliamo un territorio che non sia con la presenza di scie chimiche, devi trovare un territorio completamente disabitato, perché l'obiettivo principale è comunque la popolazione. Ho capito, loro puntano esclusivamente sul numero di persone presenti sul territorio. Non sprecano il materiale se non c'è gente. Non sprecano nulla, vogliono proprio eliminarci completamente. Esatto. Almeno nel maggior numero possibile, diciamo. Una volta, in modo tale che non ce ne accorgiamo. Va benissimo, Rosario Marcenò. Allora, per approfondire, ci puoi dire, hai un sito, hai un canale YouTube sicuramente, per approfondire anche le scie chimiche, cosa consigli ai nostri amici? Guarda, allora, noi abbiamo da un po' di anni, dal 2005, tankerenemy.com, quindi www.tankerenemy.com. Poi abbiamo aperto successivamente il canale televisivo, dove ci sono molti contenuti video che non abbiamo potuto mettere su YouTube perché vengono censurati, e che sarebbe www.tanker-enemy.tv. E poi abbiamo aperto il sito meteo, che è tankerenemymeteo.blogspot.it, quindi è facile da trovare. Tra l'altro, una nota a margine che penso sia importante da mettere in evidenza è che questo sito meteo, che è nato a settembre del 2011, si prefiggeva di, come poi è stato, di fare delle previsioni meteo tenendo conto delle modificazioni climatiche indotte dal passaggio di questi aerei, quelle che poi i meteo ufficiali definiscono innocue velature, in realtà sono mortali velature provocate dal passaggio di questi aerei a bassa quota. E il nostro successo, uno dei principali, è stato l'aver previsto l'alluvione nel Levante Ligure, quando invece i servizi meteo nazionali non avevano previsto assolutamente niente del genere, e anzi avevano previsto piogge nel Ponente Ligure. Noi, basandoci sul fatto che il Ponente Ligure è una zona di interesse militare e che quindi avrebbero contrastato questa perturbazione, che tra l'altro era contrastata anche perché in quel periodo c'era la riunione dei G20 a Nizza e che quindi lì non doveva piovere, avevamo previsto quello che poi si è verificato, cioè l'alluvione nel Levante. Accidenti. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, Rosario, per il tuo intervento, sperando che, insomma, gli amici sia un po' delucidato il fattore, questo dramma più che altro, questo dramma delle scie chimiche, sperando in futuro cosa vedi? Non lo so, io non sono molto ottimista, diciamo che continuo nella ricerca e nella diffusione di informazioni, perché deontologicamente non possiamo accantonare la cosa, non possiamo gettare la spugna, però la vedo un po' nera. Questo sarà l'anno, diciamo, fondamentale per vedere se ci sarà un cambiamento di direzione da parte dal basso, diciamo così, da parte della popolazione, se prende consapevolezza, o se no comunque la vedo nera, perché finiremo veramente male. Volevo farti l'ultima domanda, che mi è rimasto sempre un piccolo dubbio. Quando in Italia è successo questi uccelli che morivano, questi pesci, che, questo c'entra qualcosa? Sì, c'entra. Sono, diciamo, prove generali di funzionamento dei loro segnali ELF. Ti spiego, ogni essere vivente ha una frequenza sulla quale è basato il funzionamento del suo DNA e del suo cervello. Quindi gli animali hanno, a seconda delle varie specie, hanno delle determinate frequenze sulle quali, diciamo, il loro organismo viene distrutto, e gli uomini anche. Quindi alcune specie animali sono state sottoposte a una emissione di onde elettromagnetiche con una determinata frequenza, e evidentemente, come è stato poi rilevato dallo studio dei cadaveri, diciamo così, di questi vari animali che sono morti, si è notato che avevano gli organi completamente spappolati, cotti dall'interno. Quindi sicuramente sono stati sottoposti a microonde. E nel momento in cui i nostri amati scienziati decidessero di emettere un tipo di frequenza che entrerebbe in risonanza con la nostra, quella degli esseri umani, noi faremo la stessa fine che hanno fatto gli uccelli. E quindi non servono più le bombe atomiche, i missili, gli aerei, gli F-35? Assolutamente, in Afghanistan e in Iraq sono state usate armi che vengono definite le armi della morte, come le aveva definite Tesla a suo tempo, Nikola Tesla, che basano il loro funzionamento proprio sull'emissione di un fascio di microonde concentrate che cuociono gli organismi dal loro interno, quindi possono lasciare gli edifici e i veicoli completamente intatti, ma carbonizzano le persone oppure ne distruggono gli organi interni. Benissimo, allora il nostro programma Audioblog, sempre su Radio Internet 1. Vorrei salutare Rosario Marcianò e ti ringrazio per essere stato nostro ospite questa sera. Grazie, grazie a te per la fiducia, la costanza e nella pazienza nel sentirmi. È stato un piacere grande, grazie, ciao. Grazie a tutti.